Partiamo il 5 settembre con la 27esima edizione di Danza Urbana, festival di danza nei paesaggi urbani. Saranno 14 le creazioni presentate in circa 10 luoghi della città, dal centro alle propaggini più estreme della città, ai colli, piazze, luoghi storico-artistico-monumentali, aree verdi saranno i luoghi interessati dall'iniziativa. Presenteremo sia compagnie di rilievo nazionale e internazionale, sia giovani autori emergenti. E l'elemento conduttore di tutta questa iniziativa è il rapporto, la relazione che ogni creazione stabilisce con i luoghi, i contesti e gli abitanti di Bologna. E Danza Urbana è il primo festival in Italia dedicato alla danza nei paesaggi urbani, nasce nel 97 con l'intento di portare la danza a diretto contatto col pubblico, quindi negli spazi della città, per far conoscere la danza contemporanea, perché riteniamo che appunto la danza possa abitare qualsiasi luogo e soprattutto che abbia la capacità di essere estremamente coinvolgente, partecipativa e poter in qualche modo avvicinare alle arti contemporanee il pubblico e i cittadini. E poi ha un'occasione, un'esperienza straordinaria per conoscere la città stessa. Sì, io ho una domanda sui protagonisti, le protagoniste in questo caso, visto che Porpora Marcasciano sarà presente appunto all'interno del programma di Danza Urbana 2023. Sì, quest'anno ospitiamo una creazione particolare, fuori formato, perché è una performance itinerante di oltre 10 km e della durata di 5 ore, guidata da Porpora Marcasciano, attivista intellettuale che ci permette, con i suoi pensieri, le sue riflessioni, i suoi ricordi sulla città, di vivere e di attraversare questi luoghi della città e scoprire una Bologna che non conosciamo, assolutamente nuova e insolita.